Salva Danaio. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto, anche oggi puntata breve di Salva Danaio in attesa della nuova trasmissione che dalla prossima settimana debutterà a questo orario su Radio 24. Questa settimana quindi abbiamo mezz'ora di tempo, quindi andiamo subito al nostro argomento. Dalla prossima settimana troverete a questo orario Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone con una nuova trasmissione Cuore e Denari. Il tema di oggi interesserà sicuramente molti di voi, ci state già scrivendo al 349-238-6666, chiamate se volete fare qualche domanda ai nostri esperti all'800 24 00 24. Lo abbiamo preannunciato durante il collegamento nel GR e parliamo oggi dell'aumento IVA. È scattato questa mattina dal 21 al 22%. Per molti prodotti se ne saranno già accorti molti di voi che sono andati questa mattina a fare benzina, purtroppo, oppure anche dal parrucchiere, dal notaio, in un concessionario d'auto, in un negozio di abbigliamento, di mobili per la casa, anche in palestra. Sono molti i beni interessati infatti a questo aumento e i problemi sono altrettanti. Innanzitutto l'effetto che avrà sui consumi con un possibile calo di questi ultimi. Poi la gestione contabile, infatti l'aumento si applica con modalità diverse a seconda del bene e del servizio. Quel che ha complicato ulteriormente le cose è stato il precipitare della crisi politica. Fino a sabato infatti pareva certo il rinvio di questo aumento e ieri la confusione imperava. Molti operatori si erano dati dell'annuncio del congelamento del rincaro e invece ieri si sono trovati un po' colti alla sprovvista. Per chiamare 800 24 00 24 io do il benvenuto ai nostri ospiti che ci aiuteranno a capire qualcosa di più su a chi si applica questo aumento, che cosa bisogna fare per pagare oppure per mettersi così alla pari con il registratore di cassa. Benvenuto a Massimo Sirri, docente commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. E benvenuta a Francesca Milano, collega del Sole 24 Ore, buongiorno Francesca. Buongiorno, buongiorno a tutti. E che ha curato insieme ad altri colleghi questo speciale che trovate oggi sul Sole 24 Ore, speciale aumento dell'IVA, 4 pagine davvero utili per capire qualcosa di più. Francesca, tu sei in giro a Milano, no? Sì. Mi pare di capire. Sì, esattamente, oggi sono in giro, sto facendo un po' il giro tra i negozi di Milano per capire come affrontano la nuova aliquota ordinaria del 22% che si applica appunto da oggi, e devo dirti che ho trovato molto spaesamento dal punto di vista dei negozianti. Non tutti sono pronti, non tutti hanno aggiornato i listini e quindi i prezzi esposti, quindi ancora per oggi e forse anche per i prossimi giorni, chissà, i clienti potranno usufruire della vecchia aliquota e quindi dei vecchi prezzi, ma questo non durerà per sempre perché poi l'aggiornamento sarà fatto nei prossimi giorni. Insomma, ci vogliono i tempi tecnici, mi spiegavano molti commercianti che non è così facile esporre nuovi prezzi su tutti i prodotti che il negozio offre ai clienti. Sì, devo dire in effetti questo è stato un colpo di scena, questa revoca. Si pensava insomma che ci sarebbe stato questo rinvio fino proprio a venerdì sera, quando in Consiglio dei Ministri era all'ordine del giorno il decreto legge che avrebbe appunto congelato le aliquote, e invece il precipitare del weekend della crisi politica ha in qualche maniera rovesciato tutta la situazione. Sì, noi non vogliamo parlare chiaramente delle questioni politiche legate dell'appropriarsi da una parte e dall'altra politica di questa incapacità di frenare questo ulteriore aumento delle tasse che insomma davvero viene a pressare sui consumatori e crea una vita molto difficile, come tu ci spiegavi Francesca, anche ai commercianti. Vogliamo, sì, esatto, vogliamo esatto, spiegare perché in realtà, qualcosa di più? Sì, questo aumento dell'aliquota dell'1%, quindi dal 21 al 22%, parliamo dell'aliquota ordinaria, quindi sui sì. beni non ad aliquota ridotta, incide sia sulla vita dei clienti che ovviamente si trovano a spendere di più per i loro acquisti, sia sulla vita dei commercianti che appunto hanno una serie di adempimenti da dover rispettare in tempi molto brevi. Noi oggi sul Sole 24 Ore, in questo speciale di 4 pagine, spieghiamo proprio che cosa cambia per i clienti e per i venditori, per i commercianti, quindi per tutto il mondo economico italiano. Una guida molto, molto interessante e molto, insomma, molto facile da capire, perché insomma tutti possono capire quali sono i beni che aumentano di prezzo a partire da oggi. Questo è interessante perché magari c'è chi vuole capire il latte aumenta o non aumenta? Allora, per esempio, il latte fresco non aumenta, ma il latte a lunga conservazione sì. Noi abbiamo presentato all'interno della guida tutto l'elenco dei prodotti che da oggi diventano un po' più cari, e presentiamo anche tutte le regole che i commercianti devono rispettare a partire da oggi. Sì, perché infatti non sono soltanto i beni di lusso, si diceva, i gioielli, gli orologi ad aumentare, ma anche, come dicevi tu, latte a lunga conservazione, i succhi di frutta, le calzature, sì, elettrodomestici, l'abbigliamento, anche i servizi, non solo i beni, ecco, ricordiamo anche che ad aumentare servizi, esatto. Sono anche i servizi, sì, quindi non so, l'abbonamento alla palestra aumenta, l'abbonamento alla pay TV aumenta, quindi non solo comprare un nuovo televisore, perché uno dice magari non lo compro e risparmio, ok, si può risparmiare non comprando un nuovo modello, ma sappiate che il nuovo canone della Pay TV aumenterà, così come aumenteranno le nuove tariffe telefoniche e tanti altri servizi che in qualche modo incidono sulle spese economiche delle famiglie tutti i giorni. Allora, Massimo Sirri, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, che ci aiuta a capire qualcosa di più. Ci saranno delle sanzioni per chi sbaglia in questa prima fase, per i commercianti che sbagliano, i professionisti che rischiano di sbagliare, perché appunto c'è, come dicevamo, c'è stato un precipitare degli eventi che ha portato taluni a non capire se dovevano aumentare veramente i prezzi questa mattina o no? Certo, fortunatamente l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diramato proprio nella giornata di ieri, ha riproposto le possibilità che già erano state accordate in occasione del precedente aumento dal 20 al 21%, e dunque sarà possibile regolarizzare eventuali omissioni, inadempimenti commessi in questa prima fase, ovviamente versando l'imposta che risulta comunque dovuta ai relativi interessi, ma fortunatamente senza l'applicazione di sanzioni. Il comunicato peraltro prevede anche una sorta di calendario delle regolarizzazioni, diversificato poi in relazione alla tipologia di liquidazione mensile o trimestrale a cui sono assoggettati gli operatori, e quindi la possibilità di regolarizzare senza sanzioni in questa prima fase senz'altro esiste. Poi c'è da augurarsi che il comunicato stampa venga naturalmente ufficializzato con qualche pronunciamento di carattere più ufficiale. Sì, questo comunicato è molto importante, anche questo lo trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Io andrei subito a sentire qualche ascoltatore che è già in attesa all'800 24 00 24. Franco dalla provincia di Bergamo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, vorrei un'informazione. Sì. Praticamente le fatture per la ristrutturazione che vengono rilasciate dagli imprenditori così, adesso attraverso una dichiarazione dovevano essere fatte al 10%. Chiedo, con questa variazione dell'IVA incide anche sul 10% o solo sul 21%? Ha fatto bene a fare questa domanda. Massimo Sirri. L'aliquota modificata, quindi soggetta ad aumento, è solamente l'aliquota ordinaria, che passa dal 21 al 22%. Le precedenti aliquote, come peraltro è stato anticipato, le aliquote cosiddette ridotte del 4 e del 10 al momento non subiscono alcun tipo di ritocco. Grazie, grazie Franco dalla provincia di Bergamo che ci ha chiamato. Allora, abbiamo detto a quali prezzi, a quali beni si applica questa aliquota. Ci sono le aliquote del 4% che per lo più sono applicate alimentari, a stampa quotidiana e periodica, c'è quella del 10% come abbiamo detto, e Francesca tu ci hai fatto un po' di chiarezza. Dicevi che a Milano c'è un po' di confusione fra i commercianti. Sì, grandi però, sì, grandi aziende però hanno già annunciato che assorbiranno o attenueranno l'aggravio dell'IVA con uno sconto, e alcuni dettaglianti immagino faranno altrettanto. Cosa hanno deciso di fare per non far ricadere sul consumatore finale l'aumento? Certo, allora ieri per esempio l'Esselunga, la catena di supermercati, e l'IKEA hanno già fatto sapere che assorbiranno l'aumento dell'1%, quindi che il costo, questo aggravio di costo, non ricadrà sul cliente ma sull'azienda. Devo dire che oggi dal mio giro di Milano attraverso i negozi posso dire che questo accadrà anche in alcuni piccoli negozi. Ovviamente siamo appunto al primo giorno, quindi tutti erano un po' così colti alla sprovvista, ma per esempio in un negozio di biciclette mi hanno detto che l'aumento sarà deciso in base anche al modello, su alcuni modelli sarà applicato, su altri modelli magari sarà il commerciante a farsene carico. Quindi insomma un po' tutto da vedere, probabilmente alcuni aggiorneranno i prezzi nei prossimi tempi, quindi con un attimo di calma, non a partire da oggi. Oggi per esempio in un supermercato di Milano mi hanno detto che i prezzi nuovi, quindi aggiornati con la nuova aliquota, ovviamente i prezzi arrivano dalla casa madre, quindi dalla sede centrale del supermercato, e oggi i nuovi prezzi sono arrivati soltanto per 10 prodotti su tantissimi che ovviamente sono esposti all'interno delle corsie del supermercato, quindi oggi soltanto 10 prodotti sono stati aggiornati, gli altri probabilmente verranno aggiornati nei prossimi tempi. Chi invece ha provveduto immediatamente ad aggiornare i prezzi è chi vende beni che hanno un certo valore, perché ovviamente insomma è molto più rilevante. Auto, gioielli, esattamente. Io sono stata questa mattina in un negozio di arredamento dove mi dicevano che il listino prezzi è stato prontamente aggiornato proprio stamattina, perché su una cucina di 20.000 euro per esempio l'IVA incide e come, e quindi da oggi chi vuole comprarla dovrà pagare l'1% di aliquota IVA in più. Però questo mi dicevano che su alcuni beni come appunto auto, mobili eccetera può essere una spesa rilevante, su altri beni in realtà non si sentirà tantissimo. Perché è più basso l'impatto. Ma il problema, certo, mi dicevano molti commercianti, è un problema psicologico, perché molti clienti vengono un po' frenati da questo aumento dell'IVA, che magari non è veramente così pesante su alcuni beni, ma è psicologicamente un po' frenante dal punto di vista degli acquisti. E questo potrebbe essere un problema per i consumi in futuro. Esattamente. Per quanto riguarda, Massimo Cirri, per quanto riguarda i beni immobili, no? Molti si chiedono se il pagamento con aliquota al 22% o al 21% è considerato all'atto notarile o al preliminare? Certo, diciamo che in base alla norma IVA che regola il momento di effettuazione delle operazioni, per quanto riguarda le cessioni di immobili si fa riferimento all'atto notarile, quindi alla data del rogito, per cui una cessione concitata, come si dice, in data odierna, ove il bene evidentemente sia un bene ad aliquota ordinaria e quindi ex 21%, ora sarebbe assoggettato all'aliquota del 22%. Naturalmente il preliminare in quanto tale non subisce le variazioni di aliquota, salvo che evidentemente non siano state emesse fatture, non vengano emesse fatture o non si dia corso comunque a un pagamento di acconti o di anticipi che evidentemente rilevano quali momento di effettuazione dell'operazione e quindi scontano l'aliquota in base alla data in cui vengono perfezionati. Quindi questo per le abitazioni, i beni immobili, dicevamo. Invece per i beni mobili fa fede la consegna, la spedizione? Certo, beni mobili, il riferimento in via generale è alla data di consegna o spedizione che risulta dal documento di trasporto. Per fare un esempio, se un bene è stato consegnato entro il 30 di settembre, seppure possa essere fatturato con l'emissione della fattura differita entro il 15 di ottobre, comunque si tratterà di un bene che sconta la vecchia aliquota del 21% e non quella nuova del 22%. Grazie. Franco da Bologna. Pronto? Buongiorno, benvenuto. Qual è la sua domanda? Ah no, ecco, non è una domanda, io sono una considerazione, nel senso che faccio un esempio anche per gli artigiani, no? Allora, si sa benissimo che ci sono arrivati artigiani cinesi che aprono negozi di parrucchiere o simili, e che quindi praticano dei prezzi a metà prezzo, cioè rispetto a quelli che sono i normali prezzi di mercato, diciamo. Allora, ovviamente nessuno potrà aumentare i prezzi, e quindi cosa succede? Che l'aliquota avrà, in pratica cambierà l'imponibile di quello che sono i corrispettivi, e quindi il risultato si potrebbe anche tener conto, dipende ovviamente anche dal volume d'affari, non solo per i parrucchieri ma anche per tante altre categorie, che gli studi di settore potrebbero anche andarsi a farsi vedere. Cioè, questo dovrebbe essere il compito primo dei consulenti. I consulenti, anziché commentare le norme, potrebbero dare dei consigli. Franco, non sono sicura di aver capito sì, la sua domanda. Temo che però lei sia un commerciante che giustamente esprima la sua, il suo disappunto per questo aumento in qualche maniera. Massimo Cirri, ci sono tante difficoltà alle quali vanno incontro non solo i consumatori in questo momento, ma anche i commercianti. Franco cercava di spiegarcene qualcuna. Io aggiungerei anche il fatto che dei problemi di chi ha effettuato delle operazioni fra settembre e ottobre, ad esempio. Sì, operazioni appunto, come dicevo, a cavallo potrebbero destare qualche preoccupazione per una loro corretta gestione. Non non solamente le consegne dei beni, che siano, parlando di beni mobili, che siano intervenute nel mese di settembre e che poi vengano fatturate successivamente in ottobre regolarmente con fattura differita, ma potrebbe trattarsi anche del caso del professionista che magari ha emesso una nota pro forma per invitare il cliente al pagamento della parcella, indicando che poi all'atto del pagamento sarebbe stata applicata l'aliquota del 21, se il suddetto pagamento interviene invece da oggi in avanti, l'aliquota sale evidentemente al 22%, con la necessità quantomeno di debitamente informare il cliente del suddetto intervenuto aumento. Quindi complicazioni sicuramente dal punto di vista tecnico se ne presentano. Abbiamo soltanto un minuto, purtroppo non riesco a dare la voce ad altri ascoltatori che sono in attesa. Francesca, per chiudere, siccome c'è anche l'ipotesi di un blocco in futuro, successivamente con un decreto legge che blocchi questo rincaro, i commercianti e i consumatori che tu hai sentito a Milano oggi ci sperano, sono preoccupati da questa ulteriore novità che potrebbe arrivare? Brevemente, in 30 secondi, perché siamo in chiusura. Sì, in realtà sono tutti molto preoccupati, non riescono tanto a guardare avanti, perché quello che gli preoccupa è proprio il problema oggi, cioè oggi devono aggiornare i listini, oggi devono rifare tutti i prezzi, quindi diciamo che alle prossime modifiche ci penseranno poi. Per il momento l'aumento di oggi li preoccupa già abbastanza. Aumento di oggi che dicevamo riguarda alcuni beni che passano dal 21 al 22%, io vi rimando per i dettagli anche alle pagine del Sole 24 Ore di oggi, come dicevamo, che dedica all'aumento dell'IVA proprio 4 pagine per consumatori, imprese e professionisti. Noi torneremo a occuparcene perché credo che l'argomento sia di grande interesse visto le telefonate, gli sms che arrivano. Ringrazio i nostri ospiti, Francesca Milano del Sole 24 Ore, Massimo Sirri, dottore commercialista esperto per il Sole 24 Ore, Marco Lombardo in redazione, in regia Carmelo Lauricella. Salva Danaio torna domani. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.